Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Le 8, 18 minuti e 15 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è giovedì 24 settembre, questa è la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Tra poco alle 8.35 avremo ospite il presidente della Camera, Roberto Fico, con lui parleremo un po' del tema delle riforme, le riforme, ora le riforme. Quante volte l'abbiamo sentita? Parleremo un po' di quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle e certamente anche dell'Europa, dell'Europa e l'immigrazione, del piano presentato ieri. E ne parleremo anche tra un attimo con Paolo Mieli, che è con noi per l'appuntamento quotidiano. Paolo, buongiorno, ci siamo. Buongiorno, buongiorno. Scusa, guarda, visto che hai detto dell'immigrazione, io ti debbo dei complimenti perché tu sei stato il primo in assoluto nel mercato dell'informazione italiano che, quando l'altro giorno Ursula von der Leyen ha detto rivedremo Dublino, hai cominciato con i tuoi ma, boh, forse, chissà, non lo so, e io ho detto ma guarda questo sfrontato, come si permette Ursula von der Leyen, e invece avevi ragione, quel piano poi, quando è stato esplicitato ieri, era di questo che volevi parlare, si è rivelato una mezza bufala, qualche giornale lo descrive proprio come bufala, La Nazione per esempio, e tutti, ma proprio tutti, dicono vabbè, ma se stiamo a questo punto allora era meglio neanche cominciare, anzi no, non lo dicono in modo così esplicito, però questa storia della redistribuzione dei migranti, poi alla fine gira e rigira, ci riteniamo noi, forse ci danno più soldi, adesso vediamo, insomma stiamo sempre oppure penalizzano economicamente, oppure penalizzano economicamente chi non vuole riceverli e accoglierli, questa sorta di clausola di solidarietà. Ma perché non molli questi microfoni e non vai al Parlamento europeo? mi diverto troppo qua, devo dirti Paolo. Senti, prima di andare a tutto il resto, alla politica, fammi andare, abbiamo avuto poco fa il nostro direttore Fabio Tamburini che, e non abbiamo citato l'editoriale che oggi firma in prima pagina, perché volevo proprio commentarlo con te in realtà, che è dedicato a quello che è successo ieri, il pacco bomba arrivato al presidente degli industriali bresciani Pasini, ed è il terzo presidente di una territoriale di Confindustria dopo Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, Scaglia, presidente degli industriali di Bergamo, a ricevere delle minacce in pochi mesi. Devo dirti la verità, I danni di una cultura contro l'industria è il titolo dell'editoriale di Fabio Tamburini, devo dirti la verità che se fossero stati tre politici dello stesso colore sarebbe prime pagine dei quotidiani dappertutto, aperture, le minacce, la Digos che indaga, i pezzi di Fiorenza Sarzanini, eccetera eccetera, e qua invece tutto resta un po' basso. Sì, questo l'ho notato anch'io, la scelta fatta sul pacco bomba Giuseppe Pasini è una scelta, per dirla con un eufemismo, sobria, molto sobria da parte di qua, di tutti i giornali, non il Corriere della Sera, a dire il vero, che gli dà una discreta enfasi, però ecco, diciamo così, è preoccupante perché uno, due, tre indizi fanno una prova, insomma c'è qualcosa che si muove di strano, noi non sappiamo chi sia a mandare questi pacchi bomba, magari tre sventurati che fanno, però insomma stiamoci attenti, accendiamo un riflettore su queste lettere bomba e usciamo dalla sobrietà, la prossima volta che dovesse capitare qualcosa che si ricollega a un atto come questo Sì, usciamo dalla sobrietà, sì. È giusto uscire dalla sobrietà. Scrive Tamburini: le minacce arrivate non sono soltanto il frutto di iniziative estemporanee, ma la conseguenza di una cultura anti-industriale che sta facendo danni e che va contrastata con forza. Sono interamente d'accordo con Tamburini, interamente d'accordo con Tamburini. Bravo Tamburini che ha scritto questo editoriale. Paolo, ti porterei alla politica a questo punto. Abbiamo parlato di immigrazione, l'abbiamo accennato adesso, e per carità poi torneremo a parlarne con Roberto Fico. Peschiamo qualcosa in giro che hai visto. Cosa hai visto? Cosa ti ha incuriosito? Mi ha incuriosito è che David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha invitato Grillo e un personaggio strano, Gunther Pauli, a parlare di democrazia, e Grillo ha detto chiaramente che lui nella democrazia parlamentare non ci crede, che a lui gli piacerebbero deputati eletti a sorte, che insomma ha detto delle cose. Facciamo una cosa, Paolo, facciamolo sentire questo Grillo, perché ce l'abbiamo questo passaggio. Peter, vai. Non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare, di che qualcuno mi possa rappresentare, ma credo nella democrazia diretta, direttamente fatta dai cittadini attraverso il referendum. È così è Grillo. Capirai, un referendum al giorno non credo che leverebbe il medico di torno. E comunque sai a cosa ho pensato? Ho pensato che se queste cose fossero state dette un anno e mezzo fa, quando il governo era Grillo, cioè fra 5 Stelle e la Lega, oggi ci sarebbe anche qui una tempesta nei giornali, tutti avremmo detto ecco stiamo scivolando lentamente in una forma di cultura come quella di cui parlava anti-industriale, ne parlava Tamburini, antiparlamentare ne parleremmo oggi sui giornali. Anche qui attenzione, sono parole, idee, tutte le idee vanno rispettate, però non si capisce a che titolo, come mai Davide Sassoli prenda queste iniziative di invitare, sì certo i deputati europei saranno interessati ad ascoltare anche queste idee, però io ho più l'impressione di giochi, siccome da adesso in poi si parlerà solo delle elezioni a giugno, maggio, quando saranno amministrative a Roma, Milano, Torino, in grandi città, Davide Sassoli è uno dei candidati a fare sindaco di Roma. E chi è candidato a fare il sindaco, non si è candidato, lui fino adesso ha detto no, rimango dove sto, hic manebibus optime, però ho notato che il sindaco di Milano qualche tempo fa, Beppe Sala, è andato a fare una grande chiacchierata con Grillo, si sono ritrovati nella sua casa di vacanza, adesso Sassoli porta queste idee al Parlamento europeo. Ho l'impressione che dietro queste grandi riflessioni sul Parlamento si possano nascondere, ecco, mettiamolo così, si possono nascondere dei giochetti per ingraziarsi Grillo, che è pur sempre il capo spirituale di una comunità parlamentare che in questo Parlamento è ancora, ricordiamolo sempre, di grande maggioranza, insomma hanno il maggior numero di deputati e di senatori, sì. E quindi significa trovarsi delle benemerenze in vista di una candidatura, potrebbe essere, sono io che sospetto, potrebbero essere dei modi per ringraziarsi chi domani dovrà dire sì o no alla tua candidatura a Roma, Milano, Torino e via dicendo. Scrive un ascoltatore, potrebbe. Scrive un ascoltatore: in Svizzera un referendum al giorno ha tolto il politico di torno da 600 anni, ma non è vero per nulla. In Svizzera c'è il Parlamento, c'è il governo federale, ci sono i governi cantonali e poi sì, c'è anche una forma di democrazia diretta un po' più intensa rispetto a quella che c'è da noi, però non è che non esista il governo e non esista un Parlamento, no? Non esiste nessun paese Hai ragione, come sulla von der Leyen. Tu dovresti andare al Parlamento europeo. No, ti prego, ti prego, per carità, ti prego. No. Poi sai, mi ha incuriosito un'altra cosa: che Giorgetti, il leader della Lega, il numero due, quello che possiamo considerare il numero due della Lega, ha detto mai più voti come quello su Lukashenko. La Lega al Parlamento europeo, oggi siamo tutti sull'Europa, sta dando dei voti a favore di Putin, contro la verità su Lukashenko, dei voti in forte dissonanza con quelli degli altri parlamentari, persino con quelli dei 5 Stelle, che pure danno dei voti equivoci. Sai cosa significa questa uscita di Giorgetti? Significa, anche qua mi permetto di decodificare, basta con queste posizioni filo Putin, non si spiegano, la gente non le capisce, e in più le cancellerie europee ci guardano come dei mostri, ci guardano come l'unico partito europeo insieme a quello della Le Pen che chissà per quali misteriosi motivi è molto disponibile nei confronti di Putin, e questo ci pone in una condizione di grande svantaggio nel trattare con l'Europa. Vuol dire, se dovessimo vincere le elezioni e prendere la guida del governo, tutti direbbero, ma quelli sono un governo, il governo sì. italiano è un governo filoputiniano, per cui un maggior trattenimento. Mi ha colpito, è stata coraggiosa questa uscita di Giorgetti, che è più importante. Oggi tutti i giornali parlano del fatto che il leader della Lega, Salvini, si è messo accanto a una specie di ufficio politico, ha fatto quelle operazioni che facevano i vecchi partiti comunisti, una segreteria, un ufficio politico, insomma, che vuol dire prendiamo delle decisioni più collegiali. Però ecco, nella collegialità questa voce di Giorgetti mi ha colpito positivamente, molto positivamente. Sì, dice un ascoltatore che Sassori si candida al dopo Mattarella. No, amici miei, al dopo Mattarella c'è per il dopo Mattarella c'è un solo candidato, sì, che è Paolo Mieli, come tutti sapete perfettamente. Adesso all'ordine del giorno viene tu al posto di Sassoli, altro che io al posto di Mattarella. Vedremo, ci contendiamo le cariche istituzionali. Paolo, io vorrei chiudere questo nostro appuntamento con qualcosa di un po' diverso, ed è, se ne sta discutendo ormai da 48 ore, però risentiamo Peter Bescapè, quello che è successo a Carta Bianca, Mauro Corona, Bianca Berlinguer, così così, ce l'abbiamo, via. Allora la sua trasmissione da stasera la sua trasmissione se la conduce da sola, Gallina. Allora, lei vabbè, se diventa maleducato e sgradevole, senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole insultando me che sto qui a condurre così, la trasmissione. Così. Quindi, Mauro Gallina, Corona, lo scrittore, quello delle montagne, che ospite fisso là a Carta Bianca, che attacca la conduttrice, la chiama Gallina, chiama Bianca Berlinguer Gallina. Che dici, Paolo? Che è una grande scortesia, ma che ci sta tutto, perché adesso anche qui, oggi facciamo una trasmissione verità, ma perché invitiamo o vengono invitate alle trasmissioni personaggi come Corona e altri, anche alcuni filosofi, critici d'arte? Perché sbroccano. Il vero segreto di questi inviti è che la cosa che piace non sono le loro teorie sulle montagne, su Nietzsche o su Raffaello, ma la loro capacità di sbroccare, di far ridere gli spettatori, di incuriosirli, di svegliarli, perché certo loro non parlano il linguaggio forbito di Mattarella, ecco, richiamare per un'idea. La più alta personalità di Suarez, no, il linguaggio forbito, no, Suarez, l'italiano forbito di Suarez, non parlano quell'italiano. L'italiano forbito di Suarez, ho visto che il professore che lo ha esaminato ha detto, che si chiama Lorenzo Rocca, all'Università di Perugia, al caso ne abbiamo ampiamente parlato ieri, ha detto: ma quando mai, io non ho mai favorito Suarez, io sono tifoso della Roma. Quando ho letto questa dichiarazione di Lorenzo Rocca mi sono convinto, se è tifoso della Roma vuol dire che non avrà fatto inghippi, nonostante i giudici adesso provino a coinvolgere la Juventus, vogliono vederci chiaro su come è andata. Tra l'altro Suarez non è neanche finito la Juventus, ma no, insomma, però, questo è un... è un dettaglio, punto, ma tornando a Bianchina, se li invitano per fare caos e ottengono anche ascolti più interessanti, e poi non facciamogli stupiti che loro facciano caos bevendo birra in diretta, facendo suoni gutturali, insomma è il loro vero mestiere è questo. Voglio aggiungere che gran parte di loro nel partecipare a queste trasmissioni, a differenza di altri, a differenza di me quando vado in queste trasmissioni, sono pagati, nel senso che sono come dei comici, invece di invitare Gianni Gnocchi o altri comici, sì, questi che vengono pagati, il genere Gnocchi viene pagato quando vengono queste trasmissioni, invitano Corona pagandolo. Certo. E allora se il mestiere suo è di dirgli gallina, quando gli dice gallina, non fremiamo di sdegno come fremo io in questo momento, mi dispiace moltissimo per Bianca Berlinguer. Però anche quello fa notizia, fa certo ascolto, tant'è che ne parliamo oggi insieme a Ursula von der Leyen, Giorgetti, Sassoli, Grillo, noi parliamo anche del caso Gallina. Del caso Mauro Corona. Caro Paolo, dobbiamo chiudere, ti ringrazio, ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana, buona giornata. Grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie. Ciao, a tra un attimo col Presidente della Camera. State ascoltando un programma offerto da... Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Roberto Fico, Presidente della Camera, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua, come sta? Bene? Buongiorno, bene, tutto bene, bene, buongiorno a tutti. Bene. Prima ancora di andare alle note più spinose, Presidente, che sono ovviamente quelle che riguardano il suo partito, il Movimento 5 Stelle, vorrei portarla su due questioni più larghe, che sono la prima di stretta attualità, è quello che è successo ieri, la presentazione da parte della Commissione Europea di questo tentativo per molti assai timido di superamento dei regolamenti di Dublino, di questo tentativo di innescare una solidarietà europea sul tema dei migranti che finora non c'è stato. Qual è il suo giudizio ad una prima visione, ad una prima lettura naturalmente delle proposte della Commissione? Sono convinto che è un tentativo importantissimo, perché una questione che è sul tavolo è una questione che non è stata ancora risolta, e se fino a poco tempo fa parlare di revisione o abolizione del regolamento di Dublino, perché non può essere il paese di prima accoglienza che gestisce il tutto, oggi sentire alla Presidente della Commissione Europea, la von der Leyen, dire che i paesi di prima accoglienza non possono gestire tutto e che il regolamento di Dublino va abolito e riscritto e la ridistribuzione deve essere attuata obbligatoriamente da tutti i paesi europei, io credo che per l'Italia questo già sia un risultato. Adesso bisogna, diciamo, buttare la palla in rete e cercare, come sì, come si è fatto con il recovery fund, che è stato tutto un successo italiano, di provare a lavorare su un nuovo regolamento di Dublino che metta d'accordo tutti e metta a punto alla questione dell'immigrazione. Vede delle speranze su questo fronte, Presidente, al suo osservatorio, o il blocco dei paesi dell'est da una parte o di altri paesi come l'Austria può essere sotto questo aspetto dirimente e impedire di arrivare a un... No, io credo che con il risultato ci dobbiamo arrivare, ci arriveremo. E questi paesi è tutto tempo che fanno muro, ma prima non c'era una commissione che metteva al centro questa questione in modo così importante, e oggi che c'è un altro tipo di commissione, oggi che abbiamo imparato almeno per una volta come Europa ad avere un debito comune garantito da tutti, che anche questo era assolutamente impensabile fino a poco tempo fa, come appunto il recovery. Oggi credo che ci sono tutte le carte in regola anche per convincere questi paesi e nascere anche sulle politiche migratorie una nuova Europa. Senta, Presidente, verrei al dopo referendum, che apre tutta una serie di questioni che molto hanno a che fare anche con il suo ruolo, a partire dal tema della revisione dei regolamenti parlamentari, il modificare questi regolamenti parlamentari perché il Parlamento possa funzionare anche con metà dei deputati. Apre tutta la questione della legge elettorale. Devo dirle la verità, un certo scetticismo complessivo quando si sente dire adesso facciamo le riforme emerge regolarmente, perché sono 30 anni che lo sentiamo, Fico, è la volta buona, e perché se pensa che sia la volta buona, perché dovrebbe esserlo? Intanto comprendo che lei dice sono 30 anni che lo sentiamo, però adesso il referendum è stato votato la scorsa settimana e quindi il sì ha vinto in modo schiacciante e quindi una riforma importante costituzionale è stata fatta e questa legislatura l'ha portata avanti senza sosta con 4 votazioni alla Camera, al Senato, alla Camera, al Senato e alla fine. Quindi è vero quello che dice lei, però in questo momento questa riforma non è più vero perché è stata portata a buon fine. Adesso questa riforma chiama delle altre riforme, ma in questo caso è per forza. Per esempio i regolamenti della Camera devono essere attuati a pagine dei parlamentari. Abbiamo un po' di problema, Presidente, abbiamo un po' di problema con l'audio, sì, un pochino di linea, non so se non è vicino, se la bocca non è vicina alla parte nella quale si parla o se magari in uno di quei meravigliosi palazzi della Camera dei Deputati che, nei quali però quando uno non è vicino a una finestra non si sente niente, lo dico anche per esperienza diretta. Adesso mi sente meglio? Decisamente meglio, prego, vada. Sì, e quindi dico un referendum costituzionale così importante e che è stato approvato poi dai cittadini italiani si chiama dietro per forza delle altre riforme e una di quelle e senza dubbio quella dei regolamenti della Camera e del Senato, devono essere per forza modificati, bisogna fare una lunga discussione e si arriverà senza dubbio a una riforma e si arriverà perché? Perché non possiamo lasciare il prossimo Parlamento, quindi la prossima legislatura con un numero ridotto di parlamentari e un vecchio regolamento, dobbiamo fare un nuovo regolamento che si tari e si basi sul nuovo numero di parlamentari che arriveranno qui. In questo modo significa mettere in sicurezza tutte le riforme che funzionino al meglio, chiaramente nell'interesse dei cittadini per mandare avanti la continuità legislativa. E poi la legge elettorale, Fico. E la legge elettorale, non c'è dubbio, la legge elettorale è in prima commissione, ovvero affari costituzionali, è stato adottato il testo base, si sta lavorando ed è importante arrivare alla nuova legge elettorale. Senza dubbio. Senta, a proposito anche del suo ruolo, se vuole, di Presidente della Camera, ieri il fondatore del movimento al quale lei appartiene ha detto che lui crede nella democrazia diretta, ma soprattutto ha detto che non crede più nel Parlamento. Che si sente di rispondere? Io ho letto le dichiarazioni di ieri e si parlava soprattutto di democrazia diretta e partendo dal referendum che c'è stato, digitalizzazione, ci sono i 3 punti ed è chiaro che il Movimento 5 Stelle negli anni ha cercato avanti di portare la partecipazione dei cittadini ai massimi livelli tramite degli istituti e quindi quando c'è un referendum che è il massimo dell'istituto democratico a cui i cittadini partecipano c'è un percorso che va in quella direzione, quindi ieri Beppe Grillo ha detto è così bello quando c'è un referendum perché tutti i cittadini possono esprimersi, io sono concorde sul fatto che più riusciamo a far partecipare i cittadini, più riusciamo a far esprimere i cittadini e più si aumenta la coscienza anche delle decisioni e le coscienze politiche delle questioni, quindi sono d'accordo sulla partecipazione, sono d'accordo su istituti di democrazia diretta, e così come dico che però io credo che sia un principio di vasi comunicanti tra la democrazia diretta che dà maggiore partecipazione ai cittadini e la democrazia rappresentativa e tutto questo si lega con una grande partecipazione del popolo alle attività politiche. Sì. Quindi sulla prima parte delle affermazioni di Grillo non concorda, quella non credo più nella democrazia nel Parlamento, no? No, io sono convinto che democrazia rappresentativa e democrazia diretta possono lavorare in un principio di vasi comunicanti perché quando aumentiamo la capacità di scelta dei cittadini aumentiamo senza dubbio la qualità politica, questo significa anche democrazia diretta di un sistema che è ancora di democrazia rappresentativa, quindi le cose possono andare insieme. Senta, mi faccia arrivare alle spinose questioni che riguardano il Movimento 5 Stelle. Avrà dato forse anche un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Ce ne sono una serie che sono dedicate esattamente al Movimento, alla situazione interna, alle difficoltà che state attraversando, alle tensioni che state attraversando. Nei giorni scorsi lei ha raccomandato di evitare la guerra per bande, e però all'apparenza questa guerra per bande è nei fatti, anche a sentire le dichiarazioni dei suoi colleghi parlamentari. Sì, io questo lo affermo nuovamente, nel senso, ognuno può avere una posizione ed è giusto che ci sia un forte dibattito interno, chiaro, trasparente, su quello che dobbiamo fare, su quello che dobbiamo anche diventare, perché è chiaro che dobbiamo ritrovare in qualche modo una collocazione anche identitaria, perché una forza potremmo dire nata anti-establishment, è chiaro che a un certo punto, quando si trova all'interno della Camera e del Senato, del Parlamento, e diventa forza di governo, automaticamente può avere anche delle contraddizioni in sé, ma possono essere contraddizioni sia positive sia negative, ma contraddizioni che vanno elaborate per trovare un percorso nuovo. Allora non c'è dubbio che io fortemente dico che il Movimento deve spingere sull'acceleratore al massimo per far sì che ci sia una legge sull'acqua pubblica, per segnalare degli importanti concetti sul fatto che l'acqua, che è un bene comune, un bene inalienabile, vada levata dal mercato e dal profitto, dallo concetto di profitto. E allora noi possiamo queste tematiche molto bene, e quindi sia ritornare a dei principi di base su cui noi lavoravamo, sia però cercare di costruire anche la nuova, il nuovo paese, per esempio con l'opportunità del recovery fund, dove il paese da anni è totalmente iniziando da. Sì. Stiamo di nuovo un po' perdendo la linea. Presidente, rischia la spaccatura il Movimento, al di là dei suoi auspici, perché immagino che lei auspichi che la spaccatura non ci sia, però da quello che leggiamo e vediamo anche nelle dichiarazioni, l'idea che una spaccatura ci possa essere sembra nelle cose. No, io credo che la spaccatura non ci sarà, perché ogni volta che il Movimento ha avuto anche periodi difficili, poi alla fine ci si è messi tutti intorno a un tavolo, in questo caso possono essere gli stati generali, possono lavorare tutti insieme per arrivare a una sintesi, perché quello che deve prevalere non è mai una posizione o un interesse personale, ma il bene del Movimento, che oggi significa anche far bene al paese. Questo Di Battista parla troppo, Presidente. Ognuno può dire da questo punto di vista e fare ciò che vuole. Vanno bene, l'importante è essere sempre chiari, trasparenti sulle cose che si fanno, la coerenza dei comportamenti, e io credo che tutti quanti insieme possiamo riuscire ad arrivare a un buon risultato per il Movimento, ma anche rilanciarlo in un senso positivo, non come un rilancio dei vecchi partiti, ma cercando anche di affrontare le sfide che sono importantissime del futuro, e quindi anche con un pensiero nuovo, idee nuove. Sì. Quando invoca trasparenza, in sostanza mi sembra che dica: chi vuole prendersi la leadership lo dica e basta con le battaglie intestine, ho capito bene? Sì, basta con le battaglie intestine. Io sono convinto che dobbiamo riuscire a avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi che sono vivi tuttora oggi derivano secondo me anche da un verticismo che c'è stato in un periodo troppo spinto, quindi una collegialità dove ognuno può dire la sua, dove si può trovare una sintesi tra varie perspettive, vari punti di vista, credo che sia non solo il sale della democrazia, ma una soluzione utile a tutti e anche migliore nei contenuti, nella maturità. Grazie Roberto Fico, Presidente della Camera, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro sui regolamenti parlamentari e su tutto il resto. Salve. Assolutamente. Buona giornata. E chiudiamo, gli ultimi 5 minuti li dedichiamo a un dossier molto concreto che è rimasto un po' indietro in questi giorni in vista delle regionali, e si è ripresentato come di consueto poi quando si è mosso il sindacato, si sono mossi anche un po' le aziende dell'industria. condotto e via dicendo. Ed è la vicenda di Ilva, già ne abbiamo parlato ieri col presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il quale ci ha detto che la Puglia è disposta ad entrare eventualmente nel capitale di Ilva. C'è stato un incontro tra il ministro Patuanelli e i sindacati, al quale era presente Valerio Dalò, segretario nazionale della FIMCISL. Buongiorno Dalò, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati. Avreste dovuto scioperare oggi, avete deciso di non farlo anche in forza dell'incontro con l'esecutivo. Che segnali vi sono arrivati? Ma innanzitutto va ricordato che siamo arrivati ad ottenere un incontro e quindi a interrompere i mesi di silenzio che si erano imposti sulla vertenza Ilva anche per le elezioni regionali, ma non solo, dopo che l'esasperazione dei lavoratori ha fatto sì che gli stessi abbiano occupato una strada statale a Taranto fuori dallo stabilimento. L'intervento del prefetto ha fatto sì che il ministro ci abbia dato appunto la convocazione nel giro di qualche ora, e questo è il segnale che evidentemente hanno riconosciuto anche questo loro errore. Ecco, per noi era importante riprendere un po' le redini di questa vertenza, perché in questa fase di silenzio poi si era sentito di tutto, si era sentito un'Ilva che doveva fare a meno dell'aria a caldo, che doveva avere l'idrogeno per un ministro e non averlo per l'altro ministro. Ecco, quindi in questo mix di posizioni anche opposte noi non potevamo più rimanere fermi. In più, cosa che abbiamo denunciato ieri, non è più sostenibile uno stato manutentivo come questo, dove ArcelorMittal, per la prima volta nella storia della Italfeeder proprio in generale, ha fermato impianti che sono rischiosi dal punto di vista della sicurezza non solo dello stabilimento ma dell'intera città di Taranto. Perché quando si parla di Ilva si parla di un mondo, ecco, e quindi tutto ciò che si decide sullo stabilimento può avere ricadute sulla città. Noi abbiamo denunciato tutte queste cose. Di positivo c'è che abbiamo registrato da parte del governo la volontà di riprendere l'interlocuzione, questo è successo, e di positivo c'è anche che il ministro ha agito personalmente sulla Morselli, ottenendo già da questa mattina un incontro tra i nostri sindacalisti territoriali e il direttore di stabilimento per entrare nel merito appunto delle questioni. L'interlocuzione sì, con i sindacati riprende, quindi già da lunedì prossimo. E questo è un punto importante. Dalò, che prospettive ha dato il ministro? Cioè, c'è in ballo l'idea che continuiamo a sentire di fatto di una statalizzazione dell'Ilva? Allora, è confermata la volontà del governo di entrare, di partecipare nella società di Ilva. Restano ancora di Arcelor, restano ancora da sciogliere i nodi sulla governance, e noi abbiamo posto questo tema al governo, cioè chi dovrà poi avere la strategia industriale, chi lo dovrà porre e qual è il ruolo del governo. Se entra solo per metterci dei soldi e quindi pagare buchi che sono stati creati, oppure se entra con un progetto industriale e quindi vuole essere parte attiva. Abbiamo anche chiesto, cosa importantissima, di conoscere questo famosissimo accordo del 4 marzo che è stato fatto solamente tra governo ed azienda e di cui le parti sociali sono state tenute assolutamente all'oscuro. Noi abbiamo ricordato che, come abbiamo detto all'atto della cessione di Ilva, noi non saremo disponibili a ratificare licenziamenti, ma su questo il governo ha dato disponibilità che se entra nel capitale sociale della società appunto di Ami non potrà assolutamente partire con la perdita di posti di lavoro, per cui ora sì, è tutto da costruire, tutto da vedere. Di buono c'è che il governo inizia a parlare immediatamente di lavori di rifacimento di AFO 5, che per noi vuol dire l'alto rilancio forno, della produzione, sì, e sicuramente la messa a norma di un impianto che da solo può garantire, insomma, un approvvigionamento importante di acciaio per lo stabilimento. Grazie Valerio Dalò, segretario nazionale della FIMCISL, per essere stato con noi. Vedremo come andrà nelle prossime ore, uno dei tanti dossier aperti, insieme a quello, ve lo ricordo, di Atlantia, di Alitalia, mica sono chiusi quelli. Adesso, passate le regionali, tocca riprendere in mano anche questo, oltre che il recovery fund, le riforme, tutte le questioni politiche. C'è questo. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Una buona giornata da Simone Spezia. Ciao. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.